150. Frittata di cavolfiore. Per fare questa frittata di un erbaggio dei più insipidi, com'è il cavolfiore, è necessario, onde renderla grata al gusto, ve ne indichi le dosi. Cavolfiore lessato, privo delle foglie e del gambo, grammi 300, burro grammi 60, parmigiano grattato, 2 cucchiaiate ben colme, olio 1 cucchiaiata, uova numero 6. Tritate minuto il cavolfiore e mettetelo in padella col burro e l'olio, condendolo con sale e pepe. Sbattete le uova col parmigiano, salatele e versatele sopra il cavolo quando avrà ritirato l'unto. Tenete sottile la frittata per non rivoltarla. E se la padella è piccola, fatene piuttosto 2.